Kenta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. E in particolare siete all'ascolto di Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì, musica di ogni genere e di ogni epoca. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità, anche oggi non è da meno, una super novità quest'oggi ed è l'ennesima ristampa che vi propongo, ma questa è una ristampa molto ampliata, è un album che uscì nel 1982, si chiama The Days of Wine and Roses. Ma il 23 giugno scorso è stato ripubblicato in versione 4 CD, un bel cofanetto che comprende oltre al long play originale e al primo singolo della band che, per chi non l'avesse capito, si chiama Dream Syndicate. Nel secondo disco invece ci sono varie registrazioni di studio. Il terzo e quarto dischetto invece sono tutte registrazioni live. Il cofanetto prende anche un nome proprio, si chiama History Kinda Pales When It and You Are Aligned, e però il sottotitolo rimane sempre The Days of Wine and Roses, che lo ricordo è stato il disco d'esordio dei Dream Syndicate, appunto. Con un paio di dischetti live registrati qua e là c'era solo l'imbarazzo della scelta su cosa proporvi per primo, ma la mia scelta è caduta sul quarto dischetto, si chiama Live Than You Ever Be, che comprende registrazioni effettuate in due occasioni, una a Reseda in California e l'altra invece a Tucson in Arizona, e ho scelto proprio questa perché dopo ci ascolteremo dei brani che sono stati registrati appunto nella città dell'Arizona. Un'avvertenza, tutte queste registrazioni, quelle comprese appunto in questo cofanetto, sono anteriori alla pubblicazione dell'album e quindi alla registrazione dell'album vero e proprio. Sono dei Dream Syndicate molto grezzi, molto aggressivi, in certi momenti addirittura punk. C'è una versione di Piece of My Heart di Janis Joplin che è veramente punk a tutti gli effetti, e dopo avrebbero smussato un po' gli angoli con il primo album e così a seguire negli anni seguenti. Dream Syndicate, non l'ho detto, ma sono formati a Los Angeles, sono stati attivi inizialmente in due tranche, sono stati attivi dal 1981 all'89, poi si sono riformati nel 2012 fino ad ora. Nel frattempo Steve Wynn, che è il leader, ha sempre portato avanti una carriera solista che gli ha dato parecchie soddisfazioni, diciamo, come critica un po' meno come pubblico. Ok, a questo punto andiamo ad ascoltarci questa registrazione che è stata effettuata al backstage di Tucson, Arizona, e che è una versione primordiale di uno dei classici dei Dream Syndicate, si chiama Halloween.

Era il 2 dicembre del 1982 quando i Dream Syndicate suonarono in quel di Tucson, Arizona, band alle prime armi, quindi senza grandi possibilità economiche per affittare un vero studio mobile, per cui la registrazione che ci siamo ascoltati lascia un po' desiderare, diciamo così, fra alti e bassi del volume, ma come vi dicevo sono Dream Syndicate molto aggressivi, molto grezzi. Le cose poi cambieranno in seguito. Halloween è tuttora uno dei classici che eseguono nei loro concerti, sempre alla grandissima. Come vi ho anticipato, sarà Tucson, Arizona, motivo che lega i brani che ci andremo ad ascoltare in questa prima parte della trasmissione. Tucson è la seconda città dell'Arizona dopo Phoenix, ha una popolazione come città in se stessa di 543.000 abitanti circa, ma l'area metropolitana arriva a più di un milione. Si trova a 60 miglia a nord del confine messicano e si sente molto l'influenza della musica messicana in molte delle band di quell'area. Fra l'altro è il sito, la sede dell'Università di Arizona, quindi come tutte le città universitarie c'è un gran fermento musicale e non solo musicale. Una piccola curiosità che ho trovato andando a leggere in giro di Tucson è che vicino c'è un enorme aeroporto militare che è il cimitero dei B-52s, sapete quegli enormi bombardieri che i nostri nonni hanno conosciuto molto bene quando piovevano bombe su Bologna e non solo, e ci sono delle foto veramente incredibili, saranno centinaia se non migliaia, una distesa infinita di questi B-52s dismessi che però rimangono lì, non si sa bene perché, nessuno li smonta, anche perché smontarli costerebbe una cifra. Come dicevo, Tucson è una città universitaria molto attiva dal punto di vista musicale e culturale e molte band arrivano proprio da quella città, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso che apre questa piccola rassegna. Si chiamavano Necked Prey e sono stati attivi dal 1982 al 1986 e furono formati da Van Christian, che era il batterista, anzi l'ex batterista per meglio dire, dei Green on Red, altra grande band che ci ascolteremo più tardi. Il loro primo album fu nel 1984 e guarda caso fu prodotto da Dan Stewart, che è il leader dei Green on Red che ho appena citato, e l'ha inciso per l'etichetta Down There, che è l'etichetta di Steve Wynn, il leader dei Dream Syndicate. Quindi tutto un piccolo giro che ha portato alla ribalta questi Necked Prey che ci andiamo ad ascoltare in una registrazione del febbraio del 1990 che si chiama Stalker. We'll be right back. Belli grezzi anche questi, è un trio, viene da New York, anzi veniva da New York, visto che si sono sciolti nel 2016, e si chiamano John Spencer Blues Explosion, molto grezzi, molto aggressivi anche questi, e il 25 novembre del 1996 erano in un locale che si chiama Hotel Congress di Tucson, Arizona, e hanno registrato un album che si chiama Controversial Negro, album che è uscito originariamente solo in Giappone, poi naturalmente anni dopo si è trovato un po' dappertutto. Can't Stop il brano che ci siamo ascoltati. La band per eccellenza di Tucson, Arizona, secondo me, è quella dei Calexico, li abbiamo visti anche qua in Italia diverse volte. Loro sono formati dal 1996 fino ad oggi, naturalmente, e sono stati formati da due profughi di un'altra band di Tucson che si chiama Giant Sand, che ci ascolteremo forse più tardi se rimane tempo. Erano Joe Barnes, chitarrista e cantante, e John Convertino alla batteria, che formarono questi Calexico, che naturalmente capirete tutti è l'unione di California e Messico, e anche se loro effettivamente sono dell'Arizona, ma questo è un altro discorso. Hanno una discografia parallela rispetto a quella ufficiale, una discografia che potrete trovare solamente sul loro sito e che e vede diversi album live compresi, fra cui tre registrati a Bruxelles. Però nel primo c'è un infiltrato, un brano che è stato registrato a Rialto Theater di Tucson, Arizona, quindi la loro città. Il brano si chiama Crumble, loro sono Calexico. We'll be right back. she broke down and let me in. And made me see where I've been. Beh, questo è facile, si tratta di Fleetwood Mac, conosciuti in tutto il mondo, soprattutto dopo il loro trasferimento dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti e soprattutto dopo le vendite milionarie, in senso sia di quantità che monetaria, dell'album Rumours. Poi fecero una serie di tour a livello mondiale che duravano anni addirittura e da questi tour fu tratto il loro primo album live. Dico Fleetwood Mac versione americana perché loro nacquero in Gran Bretagna come gruppo blues, poi dopo qualche tempo era rimasta solo la sezione ritmica, John McVie e Mick Fleetwood più Christine Perfect che era la moglie di John McVie, e emigrarono negli Stati Uniti, raccattarono, fra virgolette, non è il termine esatto forse, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, ed ebbero un successo veramente strepitoso con un album che parlava dei loro problemi coniugali. Il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato al McHale Center di Tucson, Arizona, naturalmente, il 28 agosto del 1980 e si chiama Never Going Back Again. In giro per gli Stati Uniti ci sono migliaia di band più o meno conosciute, più o meno sconosciute, che ogni tanto pubblicano un album live. Loro suonano praticamente tutte le sere perché è l'unico modo che hanno per sbarcare il lunario, visto che non hanno cachet trascendentali. E una di queste band viene dal Texas, è un trio, si chiama Teddy Morgan, che è il leader naturalmente, and the Pistolas. loro hanno emigrato, sono stati in tour, diciamo così, a Tucson, in Arizona in particolare, il 20 gennaio del 2001, e hanno pubblicato questo album che si chiama semplicemente Live at the Seven Cats, Tucson, Arizona. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è un titolo molto conosciuto, ma non è la canzone di Tom Petty. Si chiama Louisiana Rain e loro sono Teddy Morgan and the Pistolas. Left his home in Mississippi, drove on through to Crescent City. It rained all day, it stormed all night. Couldn't stop thinking the very last fight. Who was right? Who was wrong? Guess they stayed together little too long. Now you ain't never gonna go back home. Gonna stay in Louisiana, maybe just roam. He's standing in Louisiana rain, trying to wash up just some of that pain. Now you ain't never gonna see her again. Don't last. It seemed like everybody got a broken past. Oh yeah. Moss hanging from the old oak trees, loneliest thing man you ever seen. Will he ever get her off his mind? Maybe he'll just need her till the end of time. He's standing in Louisiana rain, trying to wash up just some of that pain. Now you ain't never gonna see her again. You're standing in Louisiana rain. Thank you. feel. Listen what I say. Just a man doesn't know right from wrong, who can tell? Just a man cannot see justice. Gone. I'm staring at this light from my TV at home. Sail away from this town to save my soul. All the trees are dying and all the babies are crying for that sweet mother's milk. A man doesn't know right from wrong, who can tell? Just a man cannot see justice so easily. I'm just a man doesn't know right from wrong, who can tell? Just a man cannot see justice so easily. Questa è la canzone che dà il nome a uno dei migliori gruppi italiani da qualche anno. Si chiamano Cheap Wine e il brano appunto si chiama Cheap Wine. Titolari di questo brano sono i Green on Red, la band di Dan Stewart che arriva da Tucson, Arizona appunto, è stata attiva dal 1979 al 1992, poi ha fatto delle riunioni estemporanee, qualche piccolissimo tour, ma la sera del 4 settembre del 2005 era in concerto a Rialto, proprio nella loro città, Tucson, Arizona, e hanno registrato questo album, un combo che è un CD più un DVD, e l'hanno pubblicato naturalmente, comprende tutti i loro brani migliori, fra cui questo che ci siamo ascoltati, che è proprio uno dei loro inni, anche se naturalmente sto sempre parlando di cose abbastanza sotterranee. E fra l'altro il leader Dan Stewart, che mi sembra ultimamente viva in Spagna, è molto amico con Steve Wynn, hanno suonato insieme in diverse band e band estemporanee naturalmente, e prosegue la propria carriera anche senza grandissimo successo, a dire il vero. E siamo alla conclusione di questa piccola rassegna di registrazione effettuata in quel di Tucson, Arizona, e ci sarebbero ancora diverse cose da ascoltare, tipo i Sand Rubies, i Giant Sand, ma capisco che state scalpitando per avere una bomba finale, e la bomba avrete sicuramente, perché questo brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Convention Center il 14 marzo del 1984, naturalmente Tucson, Arizona, e si chiama Shout Out the Devil. È uno dei grandi classici, è uno dei cavalli di battaglia di una band che si chiama Motley Crue. Cities drawing a crowd and threatening everything. I'm here wondering just where I fit in. Everybody says don't care, no one don't care. Everybody says I don't care, no one don't care. I'm just trying to remember the days of wine and roses. Is looking for persuasion. The man with the notepad wants verification. Somebody says this was my creation. Everybody says it don't care, no it don't care. Everybody says it don't care, no it don't care. I'm just trying to remember the days of wine and roses. Mother says it's your fault you never looked after her. Her father's arranging to get back the furniture. And I'm here wondering just what the reasons were. Don't care, everybody don't care, no, don't care. I'm just trying to remember the days of wine and roses. Thank you. E questa è la title track dell'album d'esordio dei Dream Syndicate, si chiama The Days of Wine and Roses, album d'esordio che vi propongo come novità quest'oggi nella sua versione ampliata, che si chiama History Kind Pales When It and You Are Aligned. E 4 CD, 2 in studio e 2 registrati dal vivo. Questo in particolare che ci siamo ascoltati era registrato al Country Club di Reseda nel novembre del 1982 e naturalmente Days of Wine and Roses, un super classico della musica di tutti i tempi. Anche oggi 13 settembre 2023 vi beccate a Record Today, che sono i brani registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Anche oggi tantissime cose e anche oggi un brano per ogni decade è il criterio di scelta da me effettuato. Iniziamo subito dal 1969, qui c'è una piccola storiella da raccontare, nel senso che in quei giorni si stava svolgendo, anzi stava per svolgersi per meglio dire, un festival a Toronto di revival rock and roll, c'erano tutti i più grandi nomi del genere e due organizzatori, non so bene perché, venne in mente di chiamare John Lennon, che allora faccio notare che era ancora parte dei Beatles, siamo nel 69, i Beatles si sono sciolti nel 70, e gli chiesero se volesse fare l'MC, cioè il Master of Ceremony della serata. Lui disse: ma no, guardo alcuni amici e qualche pezzo, possiamo venire lì e li suoniamo. E naturalmente i due organizzatori dissero magari, e comunque si misero d'accordo. E il problema era che John Lennon non aveva una band, chiamò alcuni amici e che amici, fra parentesi Eric Clapton fra gli altri e diversi altri che forse sono meno, ah no, Alan White è poi diventato il batterista degli Yes, quindi abbastanza noto, Klaus Voormann il bassista che ha sempre aiutato i Beatles in sala di incisione e anche alcune copertine dei loro dischi sono dipinte da lui. Comunque questa band si trovò la sera in aeroporto, non si erano mai visti, però non avevano mai suonato insieme, si trovarono in aeroporto, fecero due sessioni di prove, una sull'aereo acustica naturalmente e una nei camerini di questo festival, Rock and Roll Revival Toronto Festival, prima di salire sul palco e suonare una serie di classici e un brano nuovo che è quello che ci andremo ad ascoltare. E ne uscì un album che si chiama Live Peace in Toronto, Plastic Ono Band era il nome del gruppo, e gruppo che John Lennon, se mi consentite una piccola opinione personale, aveva assemblato per soddisfare le voglie canterine di Yoko Ono, la sua donna. E infatti la seconda facciata sono due lunghi brani in cui Yoko Ono fa delle cose, mi dispiace per i fanatici dei Beatles, ma assolutamente inascoltabili. E la prima facciata invece contiene appunto dei classici e un brano nuovo che ci va a presentare lo stesso John Lennon. We've never done this number before, so best of luck. It's called Cold Turkey. E questi erano i cosiddetti vocalizzi di Yoko Ono, ma comunque era la l'ufficialità di questo nuovo brano, appunto Cold Turkey, uno dei brani più belli secondo me di John Lennon, che appariva per la prima volta in, che veniva suonato per meglio dire per la prima volta in pubblico, e che è stato introdotto dallo stesso John Lennon, il tutto in quel di Toronto, Canada, il 13 settembre del 1969. Passiamo all'anno seguente con una delle mie band preferite in assoluto, si chiamano Mod the Hoople, sono, a mio avviso, erano fantastici, anche se poi ogni tanto si ritrovano anche in questi giorni, pur essendo molto ma molto ma molto attempati. Sono stati attivi appunto dal 69 all'80 con molte riunioni, alcune delle quali anche documentate in album live. Loro a un certo punto della carriera stavano per sciogliersi perché non avevano successo, e a quel punto intervenne il loro amico David Bowie, che disse: guardate, ho un pezzettino che non mi va molto di cantare, ve lo regalo. Il pezzettino era The Young Dudes, che ha venduto milioni e milioni di copie e che dà il titolo anche a questa tripla antologia, dal quale traggo un brano live. Naturalmente è una tripla antologia che passa in rassegna tutta la carriera del dei Mod the Hoople fino al 1983, e ci sono un sacco di album, di brani live, un sacco di brani inediti, e uno di questi, sia live che inedito, è stato registrato al Fireford Halls di Croydon, un sobborgo di Londra, il 13 settembre del 1970, ed è una cover, un brano di Mr. Neil Young che si chiama Ohio. Neil Young reinterpretato alla grande da Mott the Hoople in questa antologia che si chiama All the Young Dudes, come dicevo, il famoso successo della band stessa, che poi anni dopo fu reinterpretato anche dallo stesso David Bowie, che è l'autore. A proposito di Neil Young, è uscito recentissimamente un vinile che si chiama Odeon Budokan, è una facciata acustica registrata all'Hammersmith Odeon di Londra, quella elettrica invece al Budokan di Tokyo. È uscito solo in vinile, anche se originariamente si trovava in uno di quei mega cofanetti da 13, 14, 15 long play o CD che vengono pubblicati, ma che costano una gran cifra. Per cui, se vi interessa, è uscito solo in vinile e dovete acquistare il vinile, se non avete anche il piatto, quello che sarebbe per ascoltare il vinile. E prossimamente sarà una delle novità che vi proporrò in questa trasmissione. Ci sono personaggi che hanno suonato per decenni, una cinquantina d'anni più o meno, e che purtroppo sono molto sconosciuti dalle nostre parti. In Inghilterra e in Gran Bretagna, negli Stati Uniti ha avuto un grande successo all'inizio con la sua prima band che si chiamava McCoys. Ebbero un grande successo con Hang on Sloopy, successo oserei dire planetario, a parte naturalmente l'Italia. E lui poi, dopo lo scioglimento della band, ha cominciato una propria carriera solista, ma anche una carriera di sideman. Ha suonato insieme a John Edgar Winter, ha suonato con Cyndi Lauper, con Ringo Starr, con tanti altri. Il suo primo album solista è del 1973, si chiama non a caso All American Boy, ed è stato omaggiato anche da un numero, chiamiamolo così, un'uscita della King Beauty Flower Hour, ne ho già parlato diverse volte. Era un radio show che andava emesso in tutta la nazione americana, quindi un bel po' di radio la trasmettevano, che ha funzionato dal 1973 al 93, con i concerti che trasmetteva, concerti originali, diciamo così. Poi però ha durato fino al 2005, riproponendo gli show che aveva già proposto negli anni precedenti. Ci andiamo ad ascoltare il personaggio, forse non l'ho detto, si chiama Rick Derringer, grande chitarrista che arriva dall'Ohio e che ha avuto un grande successo proprio con il brano che ci andiamo ad ascoltare. Questo numero di King Biscuit Flower Hour Live è attribuito a Rick Derringer and Friends, e infatti in questa occasione ci sono un sacco di amici, fra cui Dr. John, fra cui Ian Hunter stesso, che suonano insieme a lui questo grande successo che si chiama Hang on Sloopy. Oh, let your hair down, girl. Let it hang down on me. Go. Thanks for letting us play these songs, and we'll see you soon. Bye bye. This is called Locked in the Trunk of a Car. Door, I think, but don't know how now. Siamo tornati a Toronto, dove eravamo stati prima insieme alla Plastic Ono Band. Stavolta insieme siamo insieme stavolta a una band canadese di grandissimo successo che si chiamava Tragically Hip. Infatti è stata attiva fino al 2017, l'anno in cui il cantante leader è deceduto e la band ha deciso di sciogliersi. Sono autentici idoli in Canada e sono stati al vertice delle classifiche per un sacco di tempo. Questo album, che si chiama Fully Completely, è stato edito nell'ottobre del 1992 ed era un long play, mentre è stato ripubblicato in doppio CD nel 2014. Uno dei due CD è live, come abbiamo potuto ascoltare, ed è stato registrato all'Lord's Show Tavern, un locale storico di Toronto, appunto il 13 settembre del 1992, da parte di Tragically Hip. Il pezzo si chiama Locked in a Trunk of a Car. Andiamo un po' più a sud, molto molto più a sud, esattamente in California, esattamente a Los Angeles. Anche loro giocano in casa, come Tragically Hip in precedenza. Infatti Rage Against the Machine sono originari di Los Angeles, sono attivi tuttora dal 1991, ma hanno subito tantissime interruzioni a causa dei continui litigi, soprattutto fra Zack Della Rocha, il cantante, e Tom Morello, il chitarrista. E poi ogni tanto si ritrovano, soprattutto come sempre quando il conto va in rosso, ma fanno sempre delle bellissime cose, anche se l'ultimo album ormai risale diverso tempo fa. E loro sono una band molto molto politicizzata, i loro testi sono molto molto duri, molto molto contro il sistema, e difatti sono abbastanza osteggiati dal mainstream americano. Hanno pubblicato un singolo album che si chiama Live at the Grand Olympic Auditorium, uno dei tantissimi locali di Los Angeles dove si fa musica, ed era il 13 settembre dell'anno 2000. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo super, Bullet in the Head. Well, this next song is called A Bullet in Your Head. Oh, shit. This time the bullet flow rots up. I get no whipping instead of a swastika. Look for cover the macho propaganda. Move for the rules when the set commands ya. Said it was blue when the blood was red. That's how you got a bullet blasted through your head. Blasted through your head, blasted through your head. I give a shout out to the living dead. Stood and watched as the feds come sent for life. Folks are reading on the screen, you was mesmerized. Cellular phone, sounding a death tone. Corporations cold, turn you to stone before you realize. They know the clipping omnicolor. Send they back in line. Like sleeping gas, every homeless like Alcatraz. The motherfuckers lost their minds. Just victims of the in-house crime line. This is the new day, huh? Come on. Just victims of the in-house crime line. This is the new day, huh? check. And every wire to take and play it again and again and again until your mind is locked in. But even all the lies that they're telling you, they say jump, you say how high your brain's in. You got a fucking bullet in your head. Proiettile in testa, si chiama questo brano Bullet in Your Head, In the Head sarebbe il titolo, ma lui dice sempre In Your Head e non so bene che riferito, ma comunque erano Rage Against the Machine il 13 settembre del 2000 in quel di Los Angeles, la loro città di provenienza. Ottimo album, bellissimo secondo me questo, e come dicevo Rage Against the Machine si riformano e si sciolgono a seconda degli umori, sempre molto molto distanti l'uno dall'altro oserei dire, ma comunque sicuramente una grande band. Andiamo alla conclusione, un brano di 7 minuti che ci porterà appunto alla conclusione di Città Fujiko Live Club di oggi e quindi anche di Recorded Today. Appunto vi ricordo, prima di introdurre il brano, che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica da via Zanardi in Bologna. La band che ci andiamo ad ascoltare adesso, e come dicevo conclude sia Recorded Today che Città Fujiko Live Club, è una band che si chiama Need to Breathe, tutto scritto, tutto attaccato, ed è uno degli alfieri, una band alfiera, sarebbe meglio dire, del cosiddetto Christian Rock, che in America va veramente molto, testi infarciti di Dio, di Cristo, di tante altre cose, ma la musica non è niente male. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wanted Man ed è tratto da un album che si chiama Live from the Woods at Fontanelle, che è la contrazione del luogo in cui è stato registrato. In realtà si chiama Carl Black Chevy Woods Amphitheater, Fontanelle Mansion, White Creek, Tennessee. Il tutto registrato nel 2014 e ci andiamo ad ascoltare Need to Breathe, lo ripeto, il brano si chiama Wanted Man. Grazie per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio. Because of what I've done, my mistakes are stacked up.